Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Massimo Fini, 73 anni, di Cremeno, divorziato con un figlio, padre pisano, madre russa, compagno di banco di Claudio Martelli a ginnasio, Don Giussani e suo insegnante di religione al liceo, laurea in giurisprudenza, copyright alla Pirelli fino all'autunno caldo, poi si licenzia e si dedica al giornalismo, prima all'Avanti, poi inviato all'Europeo, partecipa alla preparazione di La Repubblica con Scalfari, scrive due articoli, torna all'Europeo, firma di punta dell'Indipendente di Vittorio Feltri, editorialista del Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino, collabora col Fatto Quotidiano, ha fondato il mensile La Voce del Ribelle e in lui tutto parla di ribellione, a partire dai suoi libri adesso raccolti nella modernità di un antimoderno. Tutto il pensiero di un ribelle, appunto. Ecco, Massimo Fini, tu scrivi che il ribelle è un uomo che dice no, ma è anche un uomo che dice sì, cioè? È un uomo che dice no al contesto in cui si trova, alla società in cui si trova, ma dice sì a se stesso, cioè uno che vuole rimanere se stesso. Rimanere... Ma qual è la differenza tra rivoluzionario e ribelle? Eh beh, decisiva, il rivoluzionario vuole cambiare la società. Il ribelle vuole semplicemente difendere se stesso. E tu sei un ribelle, quindi? Io sono un ribelle, non sono un rivoluzionario. Ecco, tu scrivi anche che il ribelle ama la sconfitta perché non vuole assumersi la responsabilità della vittoria. Insomma, i grillini sono ribelli o rivoluzionari? No, i grillini sono rivoluzionari. E dici anche però che il successo è oggettivamente conquistabile, ma psicologicamente irraggiungibile, cioè? Sì, perché quando lo raggiungi ti delude sempre, quindi sarebbe meglio inseguire i sogni ma non raggiungerli mai. Ma in un faccia a faccia Alessandro Di Battista mi ha detto che sei nel suo Pantheon. Ecco, ti piace essere un punto di riferimento per un leader dei 5 Stelle? Sì, non mi dispiace, anche se non vorrei essere mai l'ideologo dei 5 Stelle, sia chiaro questo. E Grillo cos'è secondo te, un profeta o un ribelle? Grillo tendenzialmente è un profeta, molto Casinaro, ma è un profeta. E quando dici Casinaro perché? È perché non ha un impianto teorico forte, adatto. Sì, sai, dice una cosa e ne dice anche il suo contrario. La mancanza di Casaleggio in realtà è stato un duro colpo. Ma tu hai partecipato al primo Vaffa Day, lo rifaresti oggi? Di più. Lo farei con le mazze da baseball. Hai fondato un movimento politico-culturale, il Movimento Zero, che tra le altre cose si propone di andare oltre la destra e la sinistra, come 5 Stelle. Sì, in un certo senso, a parte il fatto che il mio movimento è stato un fallimento totale, questo però fa parte del mio pensiero, cioè io penso che destra e sinistra sono due categorie superate, sono due categorie che hanno due secoli e mezzo di vita e non sono più in grado di capire le reale. Non reale, ma le reali esigenze dell'uomo contemporaneo occidentale, che non sono economiche come sembra, sono esistenziali. Esistenziali. Ecco, Di Battista dice che la lotta non è più tra destra e sinistra, ma tra chi camminerà a testa in giù o a testa in su. È lì la frontiera, eh? No, adesso Di Battista si esprime come si può esprimere Di Battista, voglio dire, beh, se vuol dire che fra chi farà resistenza a questo sistema, che è il sistema partitocratico di sempre, che conosciamo bene, e chi continuerà sulla strada di sempre. Senti, ma hai scritto il manifesto contro la modernità, che vuol dire essere antimoderni, ma moderni? Beh, guarda, ti rispondo io non sono credente, ma con una frase di Ratzinger quando era cardinale. Cardinale. Dice, il progresso non ha migliorato la società e l'uomo si prospetta come una minaccia per l'umanità. Cioè, la società uscita dalla rivoluzione industriale e razionalizzata dell'illuminismo, sia in senso liberista che marxista, ha fallito perché non risponde a un'esigenza essenziale che è la qualità della vita. Senti, ma un antidoto valido alla modernità intesa come globalizzazione secondo te c'è? Teoricamente sì, praticamente al momento no, nel senso che bisognerebbe ritornare alle piccole comunità, alle piccole patrie, eccetera, eccetera. Cioè, ma serve più anima e meno tecnologia? Sicuramente, questa è la debolezza dell'Occidente rispetto a ISIS, per esempio, è che sono venuti meno tutti i valori fondamentali, che sono pre-politici, pre-ideologici, che si chiamano... Sono spirituali. Sì, spirituali, ma anche laici, dignità, coraggio, lealtà. Tu hai scritto anche un manifesto contro la democrazia. E oggi, secondo te, non è la miglior forma di governo possibile? Eh? Churchill, che era un uomo molto ironico, diceva che la democrazia è il peggiore di tutti i sistemi, ad eccezione di tutti gli altri. Purtroppo la democrazia, almeno così come l'ha sperimentato in Italia, è una parodia della democrazia. In realtà, voglio dire, cosa voleva? È un tradimento del pensiero liberale. Cosa voleva il pensiero liberale? Che l'individuo potesse avere, fossero valorizzati meriti, capacità, potenzialità dell'individuo. Oggi invece i partiti, le lobby, chi non si adegua a questi umilianti infedamenti non fa. Anzi, sarebbe il cittadino ideale di una democrazia, ma ne diventa la vittima designata. Certo. Ma i 5 Stelle sembrano fare della tecnologia però un dogma. Usano la piattaforma di Casaleggio come sistema per ampliare la partecipazione democratica. Ma tu credi che sia la strada? Eh? No. No. Vedi, la democrazia diretta può esistere solo in ambiti circoscritti, come era la società del villaggio pre-industriale. Sì. Perché quelli, diciamo, la comunità decideva sul suo e del suo, cioè sapeva, certo, su che cosa sapeva, di cosa parlava. Di cosa parlava. Ah. Mentre è chiaro che una decisione su cose globali uno non sa assolutamente non su che cosa si esprime. Ma tu scrivi anche che la democrazia e la corruzione vanno sempre a braccetto, ma è inevitabile? È un dato minore. No, è un dato sì, ma è inevitabile secondo te? Sì, sì. È inevitabile perché siccome... Cioè non si può governare senza corrompersi, eh? È molto difficile, comunque è sistematica la cosa, nel senso che essendo una lotta fra partiti che devono procurarsi il consenso, e per procurarsi il consenso hanno bisogno di denaro, è chiaro che la tentazione di fare questo denaro in modo illecito è fortissima. La storia d'Italia, almeno degli ultimi 30-40 anni, dice questo. Senti, quindi anche i 5 Stelle, che crediamo onestà, una volta dentro il sistema sono destinati anche loro a corrompersi. Beh, intanto io avrei gridato legalità, che è una cosa diversa dall'onestà, certo, che è una cosa più profonda. Questo lo vedremo. Ma hai detto che l'Espresso e la Repubblica sono il simbolo dei giornali di sinistra e sono delle confraternite, cioè? Sono dei circoli in cui tu non entri, puoi essere bravo quanto vuoi. Cioè, ci sei o non ci sei. È una cooptazione. Sì, ora naturalmente questo non vuol dire che chi è dentro Repubblica non sia bravo, no, però certo, devi essere comportato. E un pochino di questo c'è anche nel fatto... quotidiano. Anche lì c'è la confraternita. Un po' di confraternita c'è, insomma. Poi il problema è il fatto, non è tanto il fatto, ma i suoi lettori, che sono appunto delle suorine di sinistra. Senti, tu sei stato l'ultimo insieme alla moglie a vedere Walter Tobagi vivo. Quella sera com'è andata? Beh, eravamo stati insieme a un dibattito al Circolo della Stampa, poi io l'ho accompagnato a casa. Erano già le 2 di notte, una cosa di questo genere. E lui era consapevole del rischio. Certamente, anche se siamo stati pazzi, perché lui mi dice, in quella chiacchierata che facciamo, erano 3 di notte, ma sai, da quotidianisti non si finisce mai, e mi dice che aveva lasciato le inchieste sulle Brigate Rosse, e dice, sai, non voglio morire per questi qua. E mi ricordo che cadeva una pioggerellina leggera e io ho avuto l'impulso di voltarmi e di guardare. Non l'ho fatto per non spaventarli. Però siamo stati incoscienti a star lì. Mamma mia. Senti Fini, ma che aria si respirava al Corriere della Sera in quel momento? C'era un'aria di complicità o no? No, c'era un'aggressione a Tobagi, in misura minore a me, perché non ero del Corriere, perché avevamo fondato una corrente sindacale. Allora il sindacato era dominato da marxisti-leninisti grotteschi del Corriere della Sera, che aveva frantumato questa cosa e si era allerata con i fascisti dell'autonomia. Quindi c'era una forte tensione contro Walter. Ma una tensione forte fino a che punto? Fino al punto cioè solo forte tensione, voglio dire, quelli lì che sono stati poi da Craxi accusati, eccetera, in realtà erano troppo, come si può dire, mi verrebbe a dire una parola, non si può dire in radio, voglio dire, dei poveracci, che non avrebbero neanche mai potuto immaginare un'azione come questa. Ma è vero che il Corriere della Sera, con cui collaboravi, ha interrotto di colpo la collaborazione con te per via di due articoli che hai scritto su De Benedetti Agnelli che non sono mai usciti? Beh, non è che io collaborassi al Corriere, mi aveva chiesto Ferruccio De Bortoli di fare delle prime di Natale, dei ritratti naturalmente critici su grandi industriali. Io ne feci uno di Ligresti, non procurò problemi, anche perché mi permetto di dire che Ligresti l'ho sfondato io a Milano con Inchiesta dell'88. Poi su Lucchini feci Benevolo, perché non mi piaceva che fosse una cosa contro tutti. E poi mi avevano proposto Agnelli anche. Io dico, ma Agnelli è il vostro padrone, siete sicuri? Vabbè, comunque prima c'è una cosa con De Benedetti, dove io ricordo certe defandezze di Benedetti che adesso... Non so, il fatto che era uscito con una buona uscita di non so quanto, da non so, ce ne sono alcune, ma francamente sono cose di tanti anni fa, non le ricordo. E poi Agnelli non se ne fece nulla. Cioè, ma non l'hai mai scritto? Sì, l'ho scritto, ma è stata una cosa che... Ma che cosa c'era che non si poteva dire? Che adesso si può dire? Non so, c'era... mille cose, c'era il fatto che questa famiglia aveva di fatto governato l'Italia senza assumersi la responsabilità politica, ma altre cose. Sei diplomatico, ti giuro, non te lo ricordo. Mentre per Benedetti c'erano delle cose di reato, per Agnelli non c'erano delle cose politici, erano politici, diciamo più così. Politici, sì. Senti, ma la stampa così di sinistra, però, da quel momento non ti ha più chiesto di collaborare. Ma la stampa di sinistra non mi ha mai chiesto di collaborare. No, vabbè, insomma, lì un po' avevi aiutato addirittura. Sei stato protagonista della nascita di Repubblica in qualche modo. Non protagonista, era stato assunto come venivo dall'Europeo, insomma, avevo una buona... È durato poco? Pochissimo, ma non per colpa... Cioè, come ho scritto, non erano loro essere sbagliati, come la storia ha dimostrato, ero io essere sbagliato per loro. Era quell'ambiente radical chic che io sempre... Non hai mai amato. Non ho mai amato. Senti, Maurizio Belpietro, Mario Giordano, Vittorio Feltri ti hanno più volte chiesto di scrivere per i loro giornali, perché non la fai? Non l'hai fatto? Berlusconi è stata la mia tragedia in vari sensi. Perché Berlusconi, proprio con Berlusconi non passi? Non passo, nel senso che non posso lavorare per Berlusconi. Ma sei tu che non puoi lavorare per Berlusconi oppure c'è un suo veto? No, nei giornali ci sono state queste proposte di questi direttori, certamente. In televisione c'è stato un suo veto antropologico, cioè non alla trasmissione, che non aveva neanche visto, ma non lui, un tale andò, un certo socio andò a dirgli: ma facciamolo lavorare Fini, che è un anti-berlusconiano storico. E allora non potemmo fare il programma. Ma come sempre, o spesso da un male nasce un bene, perché siamo andati a teatro, non con quella cosa lì, con un'altra, col cosiddetto Fini Pensiero, mi sono divertito moltissimo. Senti, c'è qualcuno, qualcosa che ti piace nella destra italiana di oggi? Beh, è difficile definire la destra, comunque a me piace, come ormai è difficile definire la sinistra, certo. Te l'ho detto, che sono due, ma mi piace perché ha passione politica, mi sembra abbia passione vera la Meloni nella destra italiana. Senti, 3 anni fa Renzi e i suoi erano il nuovo, oggi cosa sono secondo te? Renzi non è mai stato il nuovo, Renzi è giovane certamente. Ma è incardinato in un partito che è vecchio. Beh, però lui ha cercato di rottamarlo, diciamo fra virgolette, per quanto ha potuto. Di rottamarlo a suo uso e consumo. Sì. Non lo vedo come nuovo, vedi, c'è una differenza fra, diciamo, l'età è la stessa, no? Renzi e Grillini. I Grillini sono veramente nuovi perché non c'erano prima. Certo. Lui c'era. Senti, ma c'è un filo rosso secondo te che lega la Brexit, le elezioni di Trump, la sconfitta al referendum di Renzi? Le elezioni di Trump e la sconfitta di Renzi, sì. Il fatto più clamoroso e più importante e più interessante è l'elezione di Trump. Devo dire che io mi sono espresso prima scrivendo, naturalmente, a favore di Trump e contro la Clinton. Perché? Perché quando tu vedi che una è appoggiata da tutta finanza internazionale, da tutti i giornali internazionali, dalla star system hollywoodiano, capisci che il cittadino americano medio dice ma forse non è il mio rappresentante. Ma a parte questo, mi sembra che Trump, nella migliore tradizione, diciamo, dei conservatori, dei, come si chiamano? Sì, conservatori americani. Sia tendenzialmente isolazionista, sì, non interventista come i democratici. E già il fatto che abbia messo in dubbio la validità della NATO, e poi mi pare che abbia anche accennato a un ritiro delle forze in Afghanistan, sì, che è un mio pallino da sempre. Ma se ti dico che sei antioccidentale, tu ti riconosci oppure no? Non mi riconosco, a parte il fatto che preferisco definirmi europeo, perché europeo non è la stessa cosa. Certo che no. Ecco, io cerco col mio fucilino a tappo come si può dire, di avvertire su alcuni errori che l'Occidente fa e ha fatto. Ma sono a difesa di noi, voglio dire, perché questi errori ci ritornano indietro. Indietro. Basta pensare a tutte le guerre che abbiamo fatto al mondo musulmano, che poi ha creato l'ISIS. Certo. Ma dalla tua prospettiva antimodernista vedi una strada politica da percorrere per gestire la complessità in cui viviamo oppure no? No, non la vedo, cioè ci vorrebbe degli eventi traumatici, una crisi economica fortissima, cose che non so nemmeno... Guerre, insomma. Guerre vere, non guerre dove... Sì, non dove guerre a pezzi. Sì, a pezzi, dove poi tra l'altro non abbiamo neanche più il coraggio di mandare sul campo nessuno sì. No? Ci sono i peshmerga curdi, ci sono i pasdarani iraniani, ma noi non ci siamo sul terreno. So che non è un pensiero ottimista, ma credo che tutto finirà con un collasso del sistema occidentale. Senti, tu hai scritto anche un dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina, cioè? E cioè, secondo me, la sovrastruttura donna ha troppo mortificato la parte femmina. Cioè, ma tu credi che le donne abbiano un ruolo eccessivamente importante nella società moderna? Ma noi veniamo da una cultura individualista e certo non si può negare alle donne di avere pari diritti a quelli dell'uomo. Noto però che nel mondo altro, quello musulmano per esempio, le donne rimangono, la funzione delle donne principale rimane quella che poi antropologicamente è la sua, di fare i figli e non di... Perché sai, no? Adesso tu vedi 38enni, 39enni che vorrebbero dei figli, ma per carriere da segretarietta non li hanno fatti e non li faranno mai. Senti, ma ti hanno accusato mai di essere misogino? Praticamente sempre. Tutti i giorni. Cosa rispondi? Non lo so, perché poi delle fidanzate anche lui l'ha avuto di averle. Quindi un misogino strano. Misogino accoppiato. Senti, ma hai scritto Il Ribelle, Il Manifesto dell'Antimodernità, Il Manifesto contro la Democrazia, ma definirsi sempre anti, sempre per contrasto, non è anche comodo? Sì. Obiettivamente. Sì, oddio, è scomodo sul piano pratico. No, è scomodo, sì, certo. Pratico, lavoro, eccetera. Sul piano intellettuale è abbastanza comodo, anche se io non è che lo faccia apposta, è nel mio DNA. Mi viene proprio, ecco. Ma se tu dovessi definirti per qualcosa, per cosa ti definiresti? E mi definirei per una comunità piccola, per comunità del villaggio medievale. Senti, i rifiuti... Però vorrei aggiungere che non è che io... voglio un ritorno al Medioevo, alle caverne, eccetera. Vorrei che però dalle culture che ci hanno preceduto prendere alcuni suggerimenti. Uno in particolare, ed è dalla cultura greca, che secondo me è molto più fronda di quella giudaico-cristiana di cui si parla sempre, il senso del limite. Forse il vero problema della modernità è aver perso il senso del limite, soprattutto nella scienza, tecnologicamente applicata. Ho scritto un articolo che diceva la scienza tecnologicamente applicata, non la conoscenza, certo, è più pericolosa dell'ISIS. La scienza è più pericolosa dell'ISIS, ecco. Ma È più facile perdere che vincere, però accettare di vincere è difficile. Ma vedi, chi vince, questo è il limite del ribelle, che invece è uno sconfitto in generale, chi vince si assume delle responsabilità, quindi non è che io ce l'ho a priori col vincente. Ce l'hai con le responsabilità del vincere. Sì, certo. Senti, Don Giussani, che è stato tuo professore, hai detto di lui che era un uomo di grande intelligenza ma un corruttore. Perché corruttore? Perché con su ragazzi, con la sua intelligenza, la sua formazione, eccetera, è molto facile avere su adolescenti, quali eravamo noi, ragazzi di 14-15 anni, e quindi secondo me è un atteggiamento scorretto. Devo dire che, non so, dall'altra parte avevamo un professore comunista il quale diceva che la rivolta ungherese era una rivolta di nazifascisti. Quindi era meglio Giussani alla fine. Sì, anche perché è un po' più intelligente di quest'altro che si chiamava... Però, scusa, la passione e il carisma sono però quello di cui hanno bisogno i ragazzi, sempre, anche oggi. Beh, sì, però, vedi, bisogna anche dei maestri... Bisogna, come si dice, tenere una certa distanza, non fa onore al suo maestro che rimane sempre discepolo, dice Nietzsche. Quindi sì, la passione, ma diciamo con la capacità di andare oltre. La capacità di andare oltre, è inutile ripetere talmudicamente, certo, quello che ha detto il tuo guru. Senti, ma tu ti definisci agnostico o onesto pagano? Cioè, sì, cosa vuol dire? Onesto pagano, non uso agnostico in genere perché è una voce illuminista. Sì. Onesto pagano, così non voglio fare paragoni blasfemi, si definiva Nietzsche. Sono un non credente sostanzialmente. Tu tifi per il Torino, il tuo idolo è Ruud van Nistelrooy. Perché? Beh, Ruud giocava qualche anno fa. Mi piaceva per due motivi. Uno, così, che quando pigliava la palla Ruud, tutta la folla a Manchester o a Madrid diceva Ruud, perché sapeva che era già gol, ma non aveva l'arroganza di Ronaldo. E poi come uomo era un uomo sensibile. Mi ricordo una cosa, non so se abbiamo tempo. Dilla. Ecco. Cioè, lui viene acquistato dal Real Madrid per 38 milioni di euro, che allora erano tantissimi. No? Prima partita, però sua moglie è incinta. E allora lui chiede a Capello, che è un sergente di ferro, di rimanere accanto alla moglie. Che è una cosa insidiosa, perché può essere costato 38 milioni, ma poi se quello che ti istruisce gioca bene, ecco, va bene. Per fortuna la moglie partorì prima, lui si presenta al campo, Capello lo guarda e dice: tu oggi giochi, 4 gol, via. Senti, oggi mi piace Andres Iniesta. Ah, Iniesta, sì. Signore sul campo e fuori. Senti, tu tifi Torino però, sì, è vero, certo, che un po' ti piace perdere, quindi si capisce. Però adesso al Torino c'è Cairo, che è un vincente, insomma. Con l'età passi un po' dall'altra parte, o speri? Ma guarda, per la verità le cose più emozionanti sono stati i tanti anni in cui abbiamo lottato per la retrocessione. Stare a metà classifica non mi interessa. Non ti diverte. Non mi diverte. Volevo dirti un'ultima cosa. Sì. Se ti definissi un perdente di successo, ti va bene? E come mi definirei io, è perfetto. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità.